Dai, si inizia. Giovanni, grazie. Grazie, Giù. Ciao. E grazie per gli onori e colori di Montevideo. Grazie. Sì, no, non m'ha visto io. Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con la serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo come tutte le settimane, ringraziando Stefano Neri che ci concede questi spazi. Anche stasera, Fumino, abbiamo davanti a noi un ospite che ha militato nelle file del Montevarchi, che ha giocato al Brilliperi con la maglia rossoblu, un ospite importante con cui parleremo e cercheremo di trovare come consuetudine la Montevarchi anche attraverso le azioni e i colori della nostra squadra e della nostra città. È proprio così, Julian, benvenuti a tutti, agli ascoltatori di Radio Big World. Io intanto ringrazio anche il nostro regista di stasera, che è El Nicoia, un regista straniero molto conosciuto e apprezzato nei bassifondi latini, e diamo inizio alla puntata di stasera salutando e ringraziando per la sua presenza nei nostri studi Carlo Milazzo. Buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Bene Carlo, allora iniziamo facendo una sorta di scheda di quello che sei stato te come giocatore, di quella che è stata brevemente la tua carriera, anche perché magari ci sono tante persone che ci ascoltano e che non sono di Montevarchi o comunque non hanno vissuto gli anni in cui te giocavi a Montevarchi. Di dove sei originario, che ruolo giocavi e com'è che poi sei rimasto anche a Montevarchi dopo aver militato con il Montevarchi? Allora, io sono di Palermo, nato a Palermo nel 1966. Ho cominciato la carriera calcistica così nelle giovanili del Palermo, da tutta la trafila, dagli esordienti fino ad arrivare alla primavera, e poi da lì l'esordio proprio in campionato non è mai accaduto, però diciamo che ho fatto 2 anni tra la primavera e la prima squadra di Palermo, negli anni in cui poi dopo il Palermo cadde in disgrazia, quindi fui la prima squadra in cui è stata cancellata perché per dei debiti di soldi, insomma così. Da lì la mia carriera si è sviluppata attraverso Siracusa, 5 anni a Siracusa, di cui 4 intervallati da un anno a Trapani, e poi dal 91 fino al 94 la Serie C2 qui a Montevarchi, dove poi sono rimasto perché ho conosciuto moglie e quindi sono rimasto qui a Montevarchi. Mi trovo benissimo. Ora lavoro a Firenze, quindi niente, mi diverto andando in bicicletta. E il calcio ho smesso nel 2003, ho smesso di giocare a calcio nel 2003 perché poi dopo Montevarchi ho cominciato a giocare nei dilettanti qui in zona, fra Levane, Castelnuovo, e poi alla fine l'età sopravanza per tutti e quindi viene il momento in cui magari la testa ti dice una cosa ma il fisico ormai non ne vuole più e quindi dici basta. E una curiosità, te che sei siciliano d'origine e in Sicilia comunque hai giocato, qual è la differenza effettiva, se c'è, tra il modo in cui i tifosi vivono la partita al sud in Sicilia, visto che spesso a livello di tifoserie si parla del calore delle tifoserie del sud, e qui in Toscana, o quello che comunque hai vissuto te a Montevarchi? Allora, io ho vissuto le tifoserie di Siracusa, dove diciamo che la gente durante la settimana c'era la presenza costante e continua anche agli allenamenti, venivano agli allenamenti e poi dopo la fine degli allenamenti diciamo che ti capitava di trovarli al bar oppure per la strada, ti fermavano, volevano sapere gli allenamenti, la domenica perché era andata in quella maniera, insomma venivi più, non diciamo seguito, però era una cosa un po' più, la gente ti marcava più stretta. Qui a Montevarchi ho trovato, perché poi alla fine io ho vissuto soltanto la tifoseria di Montevarchi fuori dalla Sicilia, no? Quindi Montevarchi è una realtà dove la domenica soprattutto la tifoseria è calda, cioè viene allo stadio, ti segue nelle trasferte, però diciamo che durante la settimana tu vivi tranquillo, puoi andare a giro per Montevarchi senza essere, non dico disturbato, perché poi è sempre un piacere, perché il giocatore vive sempre per queste cose. Io sfido chiunque a dire che gli dispiace, gli dà fastidio il fatto che un tifoso ti fermi per la strada e magari ti chieda o l'autografo, oppure come è andata la domenica passata, la partita, il passaggio sbagliato, il gol sbagliato e queste cose qui. Ai giocatori fa piacere, insomma, che uno vengano considerati, specialmente poi nelle realtà un pochino più piccole di calcio nostro, no? E quindi Montevarchi si poteva vivere bene in città. Ecco, Siracusa invece magari era più, ogni passo c'era dietro l'angolo qualcuno che magari ti domandava o ti chiedeva. Trapani uguale, la stessa cosa. Palermo non ne parliamo, perché Palermo poi ha fatto campionati di Serie B e quindi i giocatori, io ovviamente ero di Palermo, non venivo, anche perché ero un ragazzo giovane ancora, ma i giocatori sì, non uscivano la sera, diciamo, senza essere fermati oppure beccati a giro nei locali e cose del genere, insomma. Carlo, non sei il primo ospite che è a Montevarchi, come ci hai appena raccontato, perché venendo da fuori comunque in qualche modo ha legato la sua vita alla nostra città, e siamo ovviamente molto contenti del fatto che ci siano così tante persone che si sono trovate bene o che hanno stretto legami affettivi con qualche persona della nostra zona e che sono rimaste. Ma una cosa che ci veniva detta da alcuni ospiti in precedenza riguarda gli anni 70-80 più o meno, dove i calciatori che arrivavano da fuori erano accolti dai montevarchini quasi come se fossero dei figli adottivi. Ci hanno raccontato dei calciatori che sono stati ospiti prolungatamente e continuativamente nelle case a cena, oppure ospiti a dormire da questo o da quell'altra persona di Montevarchi. Ma negli anni 90 era ancora così o Montevarchi stava cambiando? Quando sono arrivato io a Montevarchi, intanto mi sono sentito proprio un calciatore vero, nel senso che sbarcato all'aeroporto di Firenze ho trovato uno della società che mi venne a prendere all'aeroporto e mi portò a Montevarchi allo stadio. Quindi ero proprio mi sono sentito davvero un giocatore di calcio. Diciamo che l'organizzazione a Montevarchi di quei tempi lì erano gli appartamenti in affitto. Noi venivamo messi negli appartamenti a 3-4 secondo la disponibilità che c'era negli appartamenti e venivamo sistemati in quella maniera. Poi, quanto riguarda i pranzi e le cene, c'era un ristorante qui a Montevarchi dove si andava a mangiare lì, ma poi durante la settimana io non ho ricordanza di giocatori che poi venivano ospitati oppure passavano delle serate a casa di amici. Sicuramente qualcuno ci sarà stato, perché poi comunque con alcuni tifosi leghi di più, diventi più amico, perché magari ti frequenti un pochino di più, perché al bar li trovi la mattina a fare colazione, quindi ti chiacchieri un pochino di più. Quindi non escludo il fatto che magari qualcuno qualche serata in compagnia di amici montevarchini a casa di loro ci sia stata, sicuramente, ma come ci sarà ancora oggi, come ci sarà in futuro, perché questa è una cosa normale, insomma, fa parte di una cosa che capita spesso, specialmente quando tu arrivi in una città nuova e dove devi comunque approcciarti con delle realtà nuove, cerchi di fare amicizie con delle persone che poi ti ritrovi nel corso degli anni a Montevarchi o in un'altra città. La similitudine, Julian, è quella dell'esperienza di Carlo, siciliano, sbarcato a Montevarchi, con l'esperienza di Brilli, ad esempio, che ci ha raccontato in una delle primissime puntate, montevarchino doc, sbarcato in Sicilia per andare a giocare a pallone, che ci ha raccontato praticamente di essersi sentito un calciatore vero al suo arrivo in Sicilia, la stessa cosa che ha provato Carlo. Però possiamo anche dare una linea di marcatura al momento più o meno storico in quando Montevarchi, diciamo, perdeva forse la sua identità piano piano, quella più storica, in favore di un'identità più americana, dove si andava a mangiare al ristorante, avevamo la casa in affitto, piuttosto che essere ospitati sovente e con piacere dalle persone del luogo. anche da un punto di vista proprio cittadino e quindi sociale, che sensazione ha avuto nel momento in cui appunto magari era abituato alla vita siciliana, alla vita di Siracusa? È tra l'altro una città splendida, io ci sono stato quest'estate e mi è rimasta veramente nel cuore, onestamente. Poi sei arrivato qui a Montevarchi, quali sono state le differenze sociali? Perché comunque noi qui ci riserviamo, oppure ci mettiamo come obiettivo quello di ricercare la montevarchinità, no? E quindi le caratteristiche della passione cittadina attraverso la squadra e quindi il Montevarchi, ma più in generale anche quelle che sono le caratteristiche di similitudine tra appunto l'amore per la squadra e l'amore per la città. Quindi quali sono state le differenze effettive da un punto di vista proprio di vita che hai trovato negli anni 90 tra Siracusa e Montevarchi? Io ti devo dire la verità, sinceramente di difficoltà così eclatanti, a parte come si diceva prima il fatto della tifoseria un pochino più calda o meno calda, non ne ho trovate, nel senso che come era gestito il Siracusa e la società, i calciatori, insomma, appartamenti, ristoranti, così veniva gestito il Montevarchi, perché poi alla fine sono tutte realtà di Serie C che più o meno si equivalgono. Quindi differenze in questo senso non ne ho trovate sinceramente tante, nel senso le due cose, i giocatori vengono gestiti allo stesso modo, tant'è vero, come dicevate prima, chi era sbarcato in Sicilia si è sentito giocatore, io uguale, venendo qua mi sono sentito giocatore lo stesso. Quindi poi io a Montevarchi c'ero già stato con il Siracusa, alloggiato in un hotel qui del centro, perché venivamo a giocare ad Arezzo, contro l'Arezzo. Quindi quando mi sono ritrovato poi a venire qui, mi sono trovato un ambiente già familiare, quindi non ho trovato quelle differenze oppure quella curiosità di ricercare il centro storico, cosa c'è nel centro storico, cosa vado a vedere, perché diciamo che era una realtà che già sono stati 2 giorni in ritiro qui a Montevarchi quando si è giocata ad Arezzo col Siracusa, quindi era una città che già conoscevo. In più sono stato ospitato, perché all'inizio quando sono arrivato a Montevarchi la società mi aveva dato la possibilità, siccome ovviamente venivo da altri campionati e quindi qui non ero conosciuto, la società di Montevarchi come la società di Siracusa sono stati d'accordo di venirmi a farmi stare qui una settimana in prova, diciamo, chiamiamola così, in prova, nel senso che io c'avevo ancora un contratto con il Siracusa, però lì giocavo poco, quell'anno, l'anno precedente avevo giocato poco, quindi volevo giocare di più. Montevarchi mi dà questa possibilità e quindi sono venuto qui a Montevarchi, ospitato in questo appartamento dove c'era Rossi e Statella, uno nato a sud, Statella, e quindi mi hanno fatto sentire già a casa. Ecco, la distanza, la lontananza da casa, che poi comunque negli anni rimane sempre, anche se ovviamente a questo punto della mia vita so più gli anni che sono stato fuori che quelli che sono stato a Palermo, però diciamo che la tua terra è impossibile dimenticarla, quella dove sei nato. Per il resto ovviamente niente, io Montevarchi, casa mia. Una curiosità personale: per un calciatore siciliano che ha sempre giocato in Sicilia, cioè, com'è possibile di punto in bianco ritrovarsi in Toscana? Chi viene a vederti? Chi ti ha telefonato? Non lo so come funzionava ad inizio anni 90. Avevi un procuratore? Non ce l'avevi? Come funzionava? Spiegaci un po'. Sì, gli anni in cui ho giocato io, i procuratori cominciavano all'inizio, erano proprio agli albori, i procuratori si cominciavano a interessare. Io ho sempre fatto contratti da me, senza l'ausilio di nessun procuratore, anche perché non era usanza a quei tempi lì. Montevarchi è capitata perché l'allenatore mio che avevo a Siracusa, che era Cadregari, che poi venne a allenare anche la primavera della Fiorentina, e Lavezzini avevano fatto il corso assieme a Coverciano. Lavezzini qui a Montevarchi era venuto perché Montevarchi quell'anno lì era stato ripescato, perché erano retrocessi in campionato nazionale dilettanti ed erano stati ripescati in Serie C, quindi cercavano di allestire una squadra meglio attrezzata per poter fare una Serie C dignitosa, senza nessuna presunzione di classifica, di alta classifica, eccetera, eccetera. Per salvarsi. Come si suol dire, per salvarsi, sì. Certo. E quindi i due allenatori si parlarono, Lavezzini con Quadregari cercavano, si sono contattati per vedere se Quadregari conosceva dei giocatori da poter proporre a Lavezzini, no? E lì fu stato fatto il mio nome fra i due, ed ecco che, perché ti dicevo prima, la settimana di prova, perché Lavezzini non mi conosceva, nessuno conosceva, nemmeno io conoscevo l'ambiente dove andavo a giocare, e quindi come è nata la storia, è nata in questo modo qui. E mi ricordo poi, dopo la prima settimana, dopo i primi giorni, via dopo i primi allenamenti, che venne a fare, era in settembre, già c'era la Coppa Italia, e io ho assistito alla prima partita di Coppa Italia di Montepaschi dalla tribuna, con accanto Immelzi, l'allenatore, il preparatore atletico, diciamo, di Montepaschi, ai tempi in cui ho giocato io. E lì si è parlato un po' del tipo di gioco, come giocava Lavezzini, 4-4-2, la posizione in campo dove potevo utilizzare, e diciamo ero stato coinvolto abbastanza rapidamente nel progetto Montepaschi, cosa che mi ha parecchio entusiasmato, e quindi mi ha coinvolto, mi sono sentito coinvolto in questo progetto qui. L'obiettivo nostro di quell'anno lì era riportare la gente allo stadio. Penso che poi alla fine dell'anno non solo abbiamo portato allo stadio a Montepaschi, ma anche fuori, perché mi ricordo la trasferta di Pesaro con tutti i pullman e la tribuna piena, è stata davvero un'emozione bella. Perché alla fine quella prima stagione, come hai detto te, in Montepaschi era partito con l'idea di fare un campionato al massimo di mezza classifica, ma poi effettivamente le prospettive sono andate ben oltre. E cosa ti ricordi esattamente di quella stagione, del cammino di quella stagione, quindi del miglioramento rispetto ai massimali decisi a inizio anno? La prima settimana che precedeva la prima di campionato, mi ricordo Lavezzini parlava soltanto di questa situazione qui, no? Di non avere tanti grilli per la testa, di cercare di portare più possibile la gente allo stadio. L'unico obiettivo nostro era di divertire la gente, perché sentiva, perché poi Lavezzini era uno, insomma, che Montepaschi la frequentava, andava spesso nei locali, quindi era uno che ascoltava le voci della città e vedeva e sentiva, percepiva questa disinnamoro da parte della società, dei tifosi, verso la squadra, perché erano stati delusi dall'anno precedente. E quindi l'obiettivo nostro non faceva altro che ripetere, l'obiettivo nostro era quello di riportare la gente allo stadio, di divertire la gente e di riportarla allo stadio. Poi ovviamente si perse la prima partita dopo 11 partite, dopo 11 risultati di fila consecutivi a Viareggio, 4-0. Però insomma da lì piano piano si cominciò a mettere mattone sopra mattone, una stagione che era davvero da incorniciare, è stata da incorniciare, perché poi ancora c'erano i due punti a Vittoria, e si arrivò a un punto dalla seconda, che passavano, non c'erano i playoff, l'anno dopo furono inseriti i playoff, però quell'anno lì non c'erano e quindi non si sono fatti. Che ricordo hai della dirigenza di quei tempi del Montepaschi? C'erano personaggi importanti, c'erano personaggi che ancora oggi sono nel cuore delle persone, dei montepaschini, che si ricordano molto bene. E qual è stata la tua esperienza con loro, con la dirigenza del Montepaschi dell'epoca? Allora, io i presidenti ovviamente Vasco Farolfi e Leziolosi, storici di Montepaschi, unici, io penso, importanti di Montepaschi, gli unici presidenti importanti di Montepaschi, quelle lì, le due figure di massimo che ho conosciuto, insomma, sono stati quei due lì. E con loro l'esperienza era stata bella, positiva. Con Farolfi mi ricordo era un tipo restio a concedere facilmente, ad accordare un premio partita o ad accordare dei soldi in più sullo stipendio, perché insomma prima magari voleva vedere risultati e poi magari ti concedeva dei soldi in cambio. Losi invece era uno un pochino più calcolatore, nel senso mi sembrava uno di quelli che riusciva più ad essere più equilibrato nel gestire la società. Poi c'era Sili, il direttore sportivo, Giuliano Sili. Poi all'inizio, il primo anno, c'è stato Bucciarelli, direttore sportivo. Insomma, con loro, tra l'altro, con lui, con Bucciarelli, feci il viaggio di ritorno dopo quella famosa settimana che ti dicevo all'inizio di prova, perché poi comunque sono ritornato a Siracusa per firmare la risoluzione del contratto con Siracusa e quindi rifirmarla poi qui a Montevarchi. E quindi feci il viaggio di ritorno con lui, perché la moglie di Duccarelli era siciliana, di Messina, e quindi si fece il viaggio di ritorno insieme. E lì era tutto cercare di convincermi, perché l'Avezzini aveva dato parere positivo per la mia permanenza qui a Montevarchi. E quindi da lì, diciamo che in aereo è nato nel viaggio di ritorno è nato la trattativa, è nato il contratto che poi sono venuto a firmare qui a Montevarchi per 2 anni. Il primo contratto 2 anni, poi sono stato rinnovato per un altro anno, alla fine ho fatto 3 anni. E di questi 3 anni, se dovessi raccontarci la partita più significativa per te, quella che ti ricordi meglio, quella che è stata più importante? Il primo anno, la partita di Carrara. A Carrara si fece una partita, la Carrarese era quella con cui noi potevamo agganciarla, no? In quella partita lì, se si riusciva a vincere, si riusciva a mettere, sembra, un punto avanti a loro, si andava. E quindi si dette tutto per tutto. Una partita bellissima su un campo al limite della praticabilità, perché veniva giù un'acqua incredibile, però mi ricordo si fece tutta un'ottima partita, però non si andò oltre lo 0-0, ma quella diciamo che è la partita che mi ricordo più di tutti. Da ultimo c'è stata quella di Pesaro, che purtroppo non sono stato protagonista perché ero squalificato, mi sembra era squalificato assieme a Statella, e niente, si rimase in tribuna nelle gradinate insieme a tutti gli altri tifosi ad assistere a questo pareggio 3-3 anche lì. E una partita del genere dalla tribuna come l'hai vissuta? Soprattutto cosa hai visto anche a livello proprio di passione, di tifo? Perché comunque c'era un discreto seguito di Montevarchi. Sì, un incitamento dal primo all'ultimo, anche quando siamo stati sotto di 2 gol. Su quella partita lì era tutto un incitare la squadra, difatti lì siamo riusciti a rimontare la partita, a portarla sul 3-3. La gente cercava di spingere il pallone in rete, ma niente, non c'è stato l'occasione, non è scattata la possibilità di poter fare quel gol in più che ci permetteva sicuramente di vincere il campionato, di passare di categoria, cosa inaspettata all'inizio e improponibile all'inizio dell'anno. Una squadra ripescata, insomma, costruita a settembre, è finita il mercato di dicembre, fra poco, insomma, era una cosa impensabile all'inizio dell'anno. Però cosa pensa un giocatore che si trova a vedere nella gara decisiva i suoi compagni in campo in una sfida rocambolesca, perché comunque poi finisce con un risultato assurdo, un 3-3 fuori casa, e non poterli aiutare, non poter dire la sua? Fai più fatica che a essere in campo, perché lì è una fatica mentale, uno stress fisico che non te lo porti, ci vogliono giorni per smaltire poi la tensione accumulata in quella tribuna, in quei 90 minuti, quei 95 minuti che tu stai a guardare quella partita lì, cosa che invece in campo tu scarichi facendo una corsa in più, un tiro in più, scalci magari qualche avversario quando ti capita, per cercare di arrivare prima sulla palla. Però ecco, in campo riesci a sfogarti meglio, in tribuna specialmente in queste partite così non ce la fai, ti ricalci al seggiolino davanti, ti ricalci alla tribuna, salti, ma la tensione non la smaltisci, ecco. Diciamo anche per i nostri ascoltatori che non sono montevarchini e non sono siciliani e quindi non conoscono Carlo Milazzo, ma Carlo Milazzo in che ruolo giocava? Carlo Milazzo è nato centrocampista davanti alla difesa, senti. I primi anni che ho cominciato a giocare a Palermo li ho fatti davanti alla difesa. Non ero uno che impostava l'azione, perché i piedi mia su quelli stati non sono stati eccelsi mai. Diciamo che io facevo la forza mia era la corsa. Correvo tanto per il campo, facevo tanti chilometri durante la partita, e quindi da lì sono venuto a Montevarchi come esterno, centrocampista esterno di destra. Poi con gli anni poi gioco anche a sinistra, perché magari riesci con movimenti, imparando certi movimenti, imparando un pochino più tatticamente a stare in campo, riesci un pochino a sopperire magari ai piedi sinistro che non hai come quello destro, e riesci a fare qualcosa in più. Però ecco, da lì da centrocampista centrale sono diventato esterno di centrocampo a Siracusa. A Siracusa l'allenatore, la prima partita che sono arrivato, mi chiese, visto che tu corri, visto che la tua caratteristica principale è la corsa, dice, ma che ne diresti, ti faccio giocare esterno sulla destra, perché oggi mi manca l'esterno, perché anche lì a Siracusa io sono arrivato a campionato iniziato, Palermo, ho fatto la Coppa Italia con i professionisti con il Palermo, la Serie B. Ho accettato perché pur di giocare uno gioca... E quindi ho accettato di giocare esterno di fascia, tutta la fascia, un tornante, come perché all'epoca si chiamavano così, tornante di fascia destra. Quell'anno da tornante di quella posizione lì feci 7 gol all'esordio in carriera, 30 partite, 30 presenze, 7 gol, e quella e il 7 sulle spalle non me lo so più levato, ecco, da quella partita lì. Ma inizialmente io ero un centrocampista davanti alla difesa, le partite migliori a Palermo con la primavera le ho sempre fatte davanti alla difesa. Ma qui a Montevarchi ti è capitato di segnare nei 3 anni? Sì, ricordo gol bellissimo a Spezia, poi un gol in casa col Prato dalla tre quarti, un pallonetto, venne una traiettoria strana, che come ha fatto, ma in realtà io andai per anticipare il mio avversario, lui mi colpì il piede mio, io la palla e la palla arrivò in porta da sola, come ha fatto il mio avversario a calciare. Sembra un gol di Holly e Benji, insomma, il piede prende l'altro piede. Sì, qua alla fine della partita tanti complimenti da parte dei tifosi e della gente che mi seguiva, il mio cognato, la mia moglie, la mia suocera in tribuna, e come ha fatto, un bel gol, vabbè io zitto, vabbè, bello. Ci ho provato e andava bene, ma insomma, è chiaro che il segreto va lasciato tale, no? Adesso stasera stiamo dicendo, diciamo la verità come è andata, almeno così tutti. Ormai sono passati tanti anni, sì, certo. Il volo dell'Aquila svela i misteri, come quello della monetina in un famoso spareggio che qualche ospite precedente ci ha raccontato. Insomma, stasera abbiamo svelato anche il mistero del gol di Milazzo. Il doppio colpo sul pallone, più o meno, una cosa del genere. Ma torniamo a concentrarci sulla ricerca della montevarchinità, perché la Montevarchi degli anni 90, ora sì, noi l'abbiamo vissuta, ce la ricordiamo, ma eravamo ragazzini. Ecco, Milazzo, che poi si è sposato a Montevarchi con una montevarchina, ma come è capitato che hai conosciuto tua moglie a Montevarchi? Alla fine eri qua siciliano, non conoscevi nessuno, cioè come è andata? Ecco, mia moglie l'ho conosciuta io in via Roma a Montevarchi, negli anni 90 a Montevarchi si finivano, io mi ricordo che la gente ci finiva le scarpe avanti e indietro, fa le vasche in via Roma a Montevarchi, purtroppo adesso vedo una via Roma meno frequentata da montevarchini, meno frequentata da tutti, perché comunque c'è poca gente a giro per il corso a Montevarchi, per via Roma a Montevarchi. E lì noi con Statella, mio amico napoletano, andavamo in via Roma in una videoteca dove cercavamo una TV a noleggio, perché nell'appartamento dove eravamo stati sistemati non c'era una TV, e quindi eravamo andati per cercare una TV a noleggio. Lì, in quella videoteca lì, mia moglie frequentava quella videoteca lì perché guardava film in continuazione, quando smetteva di lavoro, non lavorava, era a casa, guardava film spesso e volentieri, e lì ci siamo conosciuti, dentro quella videoteca ci siamo conosciuti. Un bel quadretto, una bella fotografia di una Montevarchi, ma di una società che non esiste più, la società che andava nelle videoteche per cercare i film, o che andava per le strade a passare il proprio tempo. Sì, verissimo Fumino, ma Carlo, tornando ancora indietro e quindi tornando agli inizi della tua carriera, te hai giocato nella primavera del Palermo, una squadra che in quegli anni faceva la Serie B, e comunque malgrado questa militanza non sei riuscito mai ad esordire con la squadra della tua città. Come mai secondo te a livello nazionale, questa è un'abitudine che forse non è così tanto cambiata che fossero gli anni 80, gli anni 90 e l'oggi, tanti giocatori dei vivai che fanno la primavera in certe squadre di alto livello sono costretti poi a giocare fuori? Negli anni in cui ho cominciato a giocare io in primavera, la primavera del Palermo, tra l'altro io ho avuto allenatore Zeman, quindi quella primavera lì era stata allenata la Zeman. Io ho esordito all'età di 16 anni in primavera a Campobasso in una partita che mi ha voluto lui, mi ha voluto Zeman, facevo gli allievi, mi portò in primavera ad allenarmi con loro tutta la settimana e poi la domenica ho giocato a Campobasso. E ai tempi la frase che ricorreva, o il detto insomma che ricorreva spesso e volentieri, si diceva che nessuno era profeta in patria, e quindi parecchi di quei giocatori bravi non hanno mai giocato, non hanno mai esordito nella prima squadra del Palermo. Giocatori ottimi, perché poi quei giocatori lì Zeman li portò con sé a Licata, e da lì a Foggia, insomma il miracolo di Foggia, Licata, insomma tutta gente che ha giocato, ha calcato campi di Serie A, Serie B, insomma erano gente abbastanza, gente valida che giocava in quella primavera lì. Però a Palermo i giovani della città, i giovani proprio siciliani che volevano emergere in quella realtà calcistica che era il Palermo Calcio, niente, non c'era spazio, perché come dicevo prima nessuno è profeta in patria. Adesso magari invece qualche società che punta sui giovani riesce a farle esordire, perché magari investe dei soldi e allora qualche giocatore riesce ancora a farlo uscire fuori dalle primavere e portarlo in prima squadra. Parecchie società invece vanno a cercare già pronti, quindi si ritrova con squadre di calcio di primavera anche tutti stranieri praticamente. Comunque, seppur tu avevi 16 anni, sei stato testimone dei primi passi di Zeman nel mondo del calcio, da un certo punto di vista. E cosa ti ricordi? Cioè, si vedeva già la stoffa bizzarra di questo personaggio che comunque nel bene e nel male ha fatto la storia del calcio della massima serie. Finivano con 7-8 gol tutte le partite, anche vostre, oppure ancora Zeman finiva 0-0 ogni tanto? La filosofia calcistica di Zeman è sempre stata quella, non è mai cambiata negli anni, e secondo me è stato fra virgolette un suo difetto quello di processare sempre un calcio offensivo al massimo e cercando lo spettacolo. Magari in qualche realtà più famose dove ha allenato, se riusciva a equilibrare un pochino più le sue squadre magari avrebbe vinto parecchio di più. Io con Zeman ho esordito proprio a livello di pulcini, gli esordienti, perché io il primo anno che sono entrato nella società Palermo Calcio ho trovato lui come allenatore degli esordienti, e poi l'ho ritrovato dopo, perché lui ha fatto gli esordienti, ma il modo di gestire già i ragazzini di quell'età lì si vedeva che era uno che ci sapeva fare, e difatti la società Palermo Calcio gli affidò subito l'anno dopo la primavera, e io poi l'ho ritrovato a 16 anni in primavera lì. E il primo torneo di calcio che ho vinto, l'ho vinto con lui nella provincia di Torino, si venne a giocare con gli esordienti del Palermo in un torneo tra Ivrea, Brandizzo, Montanaro, in quelle zone lì. Abbiamo vinto un torneo di calcio con lui in quegli anni lì, ecco, subito. Insomma, qualcosa ha vinto anche Zeman, allora non è che ha solo perso, chissà, se no qui tutti dicono che Zeman ha solo perso, in realtà qualcosa Milazzo ci ha detto. Si torna lì, il volo dell'Aquila svela i misteri, e quindi abbiamo qualcosa anche nel palmarès di Zeman. Zeman ha vinto un trofeo. Abbiamo parlato delle realtà calcistiche giovanili degli anni 90 e anche prima, quando nessuno o molti pochi erano profeti in patria, e quindi era più esotico probabilmente andare a cercare questo o quello già pronto, come hai detto tu prima, piuttosto che caldeggiare e favorire piano piano l'inserimento nelle prime squadre dei ragazzi del luogo. Cosa che però adesso a 30 anni di distanza sembra sia cambiata, o sembra stia cambiando, vale a dire lo stesso Montevarchi Calcio punta moltissimo sul settore giovanile, punta moltissimo sui propri ragazzi, come ci ha detto il presidente Livi in una delle ultime registrazioni, in cui lui sogna addirittura un Montevarchi completamente formato da ragazzi, da persone di Montevarchi. Carlo, secondo te questo è un sogno, è una fantasia o potrebbe essere una realtà? No, sicuramente non è una fantasia, perché in passato i giocatori che pur non avendo esordito nelle loro squadre di appartenenza oppure nelle loro città di origine ci sono state, ci continueranno a essere, nel senso che un giocatore, il settore giovanile deve essere valorizzato di più, ci devono essere magari delle sovvenzioni, dei soldi da parte della Lega, della Federazione, del CONI, insomma, per chi investe nei settori giovanili, perché un ragazzo deve crescere e maturare via via, seguire tutti i passaggi che ci sono nel corso della sua carriera calcistica e crescere nelle società dove nasce, dove è nato, perché spostare i ragazzi da una città a un'altra sono delle situazioni, insomma, ragazzi, qualcuno si può trovare bene, qualcuno magari poi nelle realtà della città non si trova bene e magari il fenomeno che era nella sua città diventa uno scarpone in quell'altra città perché non si ambienta nel tessuto sociale in cui va a stare. E invece, secondo me, un giocatore che se cresce nella propria realtà di città con la famiglia vicino, io credo che sia più conveniente per tutti, sia come società che se lo vede crescere e poi esordire in prima squadra, che invece portarlo oppure prenderlo già fatto da altre parti, magari spendere dei soldi e poi dopo non ti rimane nulla. Benissimo Carlo, siamo addirittura d'arrivo con questa puntata. Ti tocca come ultima domanda una domanda di rito che parla proprio dei riti dei calciatori. Noi abbiamo chiesto a tutti gli ex calciatori o ai calciatori che sono venuti a trovarci se avevano o hanno qualche scaramanzia nel prepartita importante. Diciamo, te avevi qualche scaramanzia prima di giocare? La scaramanzia, che se così si può chiamare, diciamo che io avevo sempre portato sempre con me gli stessi parastinchi da quando era dalla primavera del Palermo, che ci avevo alle belle con Zeman, ecco, tenevo sempre quei tipi di parastinchi lì, gli stessi, guai chi me li toccava, non potevo fare a meno. Piuttosto negli anni finiti li cambiavo e magari li mettevo altri, ma nella borsa c'erano sempre quelli. Mi immagino che il gol più bello, che è l'altra domanda di rito che facciamo a tutti i calciatori, sia stato per te quello di cui abbiamo parlato prima, tipo Olli e Benji, non so se è così. Sì, diciamo che due sono stati i gol più importanti, quello lì che è stato svelato l'arcano perché, e poi quello di La Spezia, diciamo che tecnicamente è stato quello più mio, ecco, più quello di La Spezia, sì. Ok, bene, quindi fra Olli e Benji e La Spezia siamo arrivati in fondo alla nostra puntata di stasera. Ringraziamo caldamente il nostro regista di stasera, come abbiamo detto all'inizio puntata, un regista dei bassifondi latini, ovvero El Nicoia. Ringrazio il mio compagno alla ricerca della montevarchinità, Julian Carax. Io ringrazio Carlo, è stato un piacere conoscerlo ed averlo ai nostri microfoni. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Big World e buonanotte. Grazie a voi, buonasera e buonanotte a tutti. Grazie Carlo anche da parte mia, e ringraziamo anche il nostro ospite, ovvero Santo Subito, Stefano Neri, per la concessione degli spazi all'interno della Galleria San Lorenzo in pieno centro storico di Montevarchi. Grazie e alla prossima puntata. Sempre bianco venire sotto. Perché arrivo a periodo non mi interessava per il calcio. Dai mamma, io udinese, io ho detto voglio essere per la strada della mamma. La mamma è quello di Nese, diventa quello di Nese, adesso diventa quello di Nese. Il regista di stasera, a proposito del registrato? Giovanni Papi. El Nicoia. Adesso ci chiamare Il Nicoia. Il Nicoia, deciso. Quella è una canzone di Santana, mi sa. Perché spostare capitali all'estero oppure portare. Spostare capitali all'estero, no?